Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Buon pomeriggio, bentornati a tutti gli ascoltatori. Buon anno a tutti quanti. Buon anno. Oggi a Lucciole nelle tenebre cominciamo con una rassegna speciale. Saranno un ciclo di 3 puntate sulle stragi di mafia del 92 e del 93 e cercheremo di spiegarvi meglio cosa è accaduto in questi anni. Siamo in studio io, Tania, Tambu e Eleonora. Ciao. Ah, giusto, abbiamo dimenticato di salutare il tecnico. Siamo mortificate, tecnico, veramente mortificate. Ciao tecnico. Anche perché è grazie a lui che adesso, magicamente, come 3 vere croniste, ci teletrasporteremo. Davvero? Siete pronte? Negli anni 80! 1980. Alle 10:25 del 2 agosto esplode una bomba nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. Lo scoppio è violentissimo, 85 morti e 200 feriti. La città si trasforma in una gigantesca macchina di soccorso e di assistenza per le vittime. E la Fiat, per cercare di uscire dalla crisi che l'ha colpita alla fine degli anni 70, mette in commercio la Panda, una piccola vettura destinata a un grandissimo successo. Gaetano Costa, procuratore capo di Palermo, è ammazzato con 3 colpi di pistola da 2 killer in moto. Causa di questa spietata esecuzione è il fatto che egli avesse firmato personalmente dei mandanti di cattura nei confronti del boss Rosario Spatola. Nella moda, l'annata è curiosamente caratterizzata dalla moda western, giacche e giubbotti sfrangiati sono il trend del momento. Tra i più giovani dilagano le scarpe Topsiders. Il 23 novembre, un disastroso terremoto devasta l'Irpinia, arrivando a colpire ben 688 comuni. La magnitudo è di 6.5 gradi Richter, le vittime quasi 3.000. La mattina dell'8 dicembre, John Lennon viene ucciso nei pressi di Central Park da un giovane squilibrato di 25 anni che mette fine alla vita dell'ex Beatle con 5 colpi di pistola. A soli 40 anni così si spegne una vera leggenda della musica pop. ...1981. Il 13 maggio il santo padre Giovanni Paolo II viene colpito in piazza San Pietro da un fanatico turco di nome Ali Agca. E dilaga lo scandalo della P2, la loggia massonica guidata da Licio Gelli, per il quale la magistratura ha emesso un ordine di cattura. Il governo Forlani è costretto a dimettersi e a cedere il testimone al primo governo laico della Repubblica dal 1945, presieduto da Giovanni Spadolini. Inizia anche la seconda guerra di mafia, che vede contrapporsi 2 autorità dell'Andrangheta, i Merti e De Stefano. Si celebra a Londra il matrimonio del principe Carlo d'Inghilterra con Diana Spencer. La storia tra i due appassiona il mondo intero, forse perché incarna il mito della favola in cui una ragazza qualunque di modesta estrazione sociale arriva a sposare un principe. La cerimonia, davvero sontuosa, conterà complessivamente qualcosa come 125 miliardi. Wow, clamoroso! Clamoroso! Aha. 1982. Pio La Torre, segretario del Partito Comunista Siciliano, viene ucciso su ordine di Totò Riina, capo dei Corleonesi, a causa della sua proposta di legge riguardante i patrimoni dei mafiosi. E nel giugno del 1982 Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei carabinieri e prefetto del capoluogo siciliano, riesce a sviluppare una sorta di mappa dei boss della nuova mafia, che chiama Rapporto dei 162. Poi inizia una lunga serie di arresti e di indagini, che hanno come obiettivo quello di appurare eventuali collusioni tra politica e Cosa Nostra. In settembre viene assassinato insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Sì! Il mondo! Per la prima volta dalle Alpi di Sicilia il nostro paese è sotto un unico colore, quello della bandiera della nazionale azzurra. ...1983. La novità del momento sono i CD. Rassegniamoci anche noi in radio ad abbandonare i nostri amati. No, perché Dio, perché? Come farà il tecnico? Sta già piangendo, senti. Il presidente Pertini affida il nuovo incarico di governo a Bertino Craxi. È scattata nel napoletano una massiccia operazione di polizia nei confronti della criminalità organizzata. Molti gli arresti eccellenti, tra questi anche il popolare presentatore Enzo Tortora. Grandi successi sul grande schermo, E.T. di Steven Spielberg, che diverte e commuove tutto il mondo. C'era una volta in America di Sergio Leone e La nave va di Fellini. Intanto Blade Runner getta le basi di una vera e propria moda nel vestire tra i più giovani, quella stile dei sopravvissuti post-atomici che si fa strada in particolare a Londra. You gonna live. 1984. Ed è il lutto nel mondo della politica italiana per la scomparsa di Enrico Berlinguer. 1,5 milioni di persone sono attese per rendergli omaggio nell'estremo saluto. Ed è decisamente meritato il successo del film Non ci resta che piangere, interpretato dall'inedita coppia Troisi-Benigni, fantastici, un'esilarante commedia ambientata nel 1492. Dopo 7 mesi di carcere e 3 arresti domiciliari, torna in libertà Enzo Tortora, grazie anche alle elezioni al Parlamento europeo. Buscetta, estradato dal Brasile, ricercato da 4 anni, inizia a far rivelazioni a Falcone, dopo essere stato accolto in aeroporto dal vicequestore Gianni Gennaro. E Giuseppe Fava, noto giornalista e fondatore dei Siciliani, è stato ucciso da Cosa Nostra mentre scendeva dalla sua Renault 5. ...1985. Francesco Cossiga diventa il nostro nuovo Presidente della Repubblica. Oh, incredibile! Che è successo? Sul fondo del mare viene ritrovato il Titanic, naufragato 73 anni fa. Dai. Oh, si cerca un grande tesoro e dicono diamanti e gioielli nascosti. Pensa. Pazzesco. Muore Giancarlo Siani, il giornalista che fra l'altro aveva accusato il clan Nuvoletta, alleato dei Corleonesi, e il clan Bardellino di voler spodestare e vendere alla polizia il boss Valentino Giunta per porre fine alla guerra tra famiglie malavitose. metti che ti presenti a una ragazza e dici sono bene. 1986. Esplode un reattore nucleare della centrale di Chernobyl in Ucraina. L'incidente genera una nube radioattiva che si sparge nei cieli d'Europa, diffondendo l'allarme e la sindrome da nube tossica in tutto il continente. Oh, indovinate che c'è stasera in TV? Ah boh, che c'è? La corrida, la corrida, la corrida, ragazzi, dilettanti allo sbaraglio. È un programma condotto impeccabilmente dal grandissimo Corrado, ragazzi, non perdetevelo, anzi guardiamolo insieme, per favore. Oh cavolo, ok, va bene. Casa del tecnico allora. A casa del tecnico, perfetto, perfetto. Vi lascio le chiavi, io esco. A Palermo è appena iniziato il maxi processo contro Cosa Nostra. Gli imputati sono più di 400, tutti per crimini legati alla criminalità organizzata. Chissà come andrà a finire. Boh, speriamo bene. A Ravenna, 13 operai perdono la vita durante lavori di manutenzione della nave Elisabetta Montanari, mentre in Valtellina una terribile inondazione provoca 53 morti, 1500 sono i senza tetto. Ed è allarme ADS anche in Italia, numerose le campagne informative contro quella che si può definire la peste del secolo. La Cassazione ha reso definitiva la sentenza che ha portato all'assoluzione per insufficienza di prove di tutti gli imputati coinvolti nella strage di Piazza Fontana. Mentre a Palermo, dopo 22 mesi di dibattimenti, si chiude il maxi processo con 19 condanne per ergastolo, 342 condanne detentive e 114 assoluzioni. Ah, ecco come è andata a finire. Chi l'avrebbe mai detto? Ci ha lasciato lo scrittore Primo Levi, testimone delle deportazioni naziste e sopravvissuto ai lager. Ed è scandalo, scandalo delle carceri d'oro. Infatti sarebbero state distribuite tangenti ai politici sugli appalti per la costruzione degli istituti di pena. Scattano anche più di 300 mandati di cattura tra Napoli, Palermo e New York nell'ambito di un'indagine congiunta tra FBI e Polizia Italiana col coordinamento di Giovanni Falcone, nota come Pizza Connection. Un'indagine complessa in cui si è scoperto che alcune delle più grandi famiglie mafiose sfruttano le loro pizzerie per lo spaccio di eroina. A Forlì viene ucciso dalle Brigate Rosse Roberto Ruffilli, mentre in Sicilia viene ucciso dalla mafia Antonino Saetta, presidente della Corte d'Appello di Palermo. A Trapani, sempre dopo un agguato di stampo mafioso, viene assassinato il sociologo e giornalista Mauro Rostagno, ex leader di Lotta Continua. Nelson Mandela esce dal carcere per essere ricoverato in ospedale. È la sua prima uscita dopo 24 anni. Violentissimo terremoto in Armenia che ha causato un numero spaventoso di vittime, 300.000, 400.000 sono i senza tetto. 9 premi Oscar all'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. Dall'altra parte del mondo, in Cina, gli studenti scendono in piazza Tiananmen per protestare contro il regime. È la più grande dimostrazione messa in atto dai tempi di Mao. Più di 500.000 sono i manifestanti. Purtroppo il regime ha represso nel sangue le agitazioni studentesche. Intanto in Italia, Angela Casella, madre di Cesare Casella, rapito da 17 mesi, si incatena nella piazza di Locri per denunciare l'incapacità dello Stato a fronteggiare la criminalità organizzata. Sempre in tema di lotta alla mafia, numerose sono le lettere provenienti dalla Procura di Palermo, definite del Corvo, che tendono a screditare il lavoro di Giovanni Falcone. Enorme successo per i Pink Floyd a Venezia. Il gruppo si è esibito in piazza San Marco raccogliendo circa 200.000 fan. Hanno aperto il concerto con Shine On You, Crazy Diamond. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Ed eccoci, siamo ripiombati nel 2013. È stato un divertimento, ci siamo divertiti veramente un sacco. Ma dobbiamo già andare. Sì, pare di sì, il tecnico ci butta fuori qua, sapete com'è. Magari vuole andare a vedere la corrida. La corrida, giusto, rivedersi le puntate. Ci è spiaciuto, non vediamo l'ora di rifarlo un viaggio così. Va bene, dai, l'appuntamento andrà alle prossime puntate di Lucciole nelle Tenebre. Un caloroso saluto. Ciao. Ciao, ciao.